è stato causato anche da un eccesso di zelo di un pilota come Grosjean, che si era già avvicinato un po' troppo spesso a questa linea, certo, a questa linea, certo, diciamo, di oltre la quale non bisogna andare, tant'è vero che gli è stata inferta una punizione. Però le macchine oggi sono incredibilmente sicure, ma tutto sommato la fatalità può comunque accadere, accade a 50 all'ora con le auto che noi guidiamo tutti i giorni, quotidianamente sulle nostre strade. E purtroppo è una questione di tempo e di calcolo di probabilità, ma magari, ovviamente io non lo auguro, ma non me lo auguro, ma potrebbe accadere di nuovo anche, certo, in Formula 1. Certo. Alex, io non so come ringraziarti, più tardi ci sentiamo, mi dai una mail e ti giro tutti i messaggi che mi sono arrivati adesso, perché meritano una lettura, te lo assicuro. Ti ringrazio molto. Sbaglio tutte le volte, Carmelo Lauricelli in regia e Franco Piantanini in redazione, che anche oggi vi ha preparato alcune cose divertenti. Sbaglio tutte le volte, perdonatemi, tra un po' lo farò anche apposta. 800 24 00 24 e siete tutti convocati qui per parlare di sport, ma siete convocati anche via mail, tutti convocati a radio24.it, podcast della trasmissione scaricabile sulla, ovviamente, sito di Radio 24, sulla pagina Tutti Convocati, quindi Non Più a Tempo di Sport. Twitter ce l'abbiamo, Facebook ce l'avremo, perché se no picchio qualcuno, magari Franco Piantanida, se non crea una pagina al più presto, perché voglio che siano davvero tutti convocati su tutti gli sport. Giuseppe da Mantova è il primo di oggi, buongiorno. Buongiorno, volevo testimoniare il fatto che per me Alex Zanardi è effettivamente una fonte di ispirazione. Posso testimoniare la sua partecipazione alla Maratona delle Alpi nella edizione del 2011, se ricordo bene. Sì. Nella quale con la sua bicicletta, con la forza delle braccia, ha fatto niente poco di meno che 200 chilometri, se ricordo bene, con un dislivello di circa 6.000 metri. È un atleta, un'impresa che non... Ma Alex Zanardi è un atleta, spaventoso. Un'impresa che sarebbe quasi titanica per un essere come me. Sì. Quindi ribadisco tutta la mia vicinanza e la stima profonda per un autentico atleta e un vero uomo. Beh, molto bello, grazie Giuseppe. La ringrazio. 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666 e quelli che sono tantissimi che sono arrivati prima per Zanardi, prometto glieli gireremo più tardi via mail. Per il resto, cosa volete che vi dica? I quotidiani parrocchiali parlano di calcio, lo faremo anche noi, non in modo serissimo perché non ne ho voglia oggi, perché più tardi voglio parlare invece in modo un po' più serio del derby di New York vinto da Sara Errani. Voglio perché no parlare anche di, o farvi sentire qualcosa sull'impresa della nazionale di basket che ieri ha vinto in Turchia su un campo su cui anche a livello di club il nostro basket ha preso schiaffoni negli ultimi anni, e sono 7 vittorie consecutive per gli azzurri. So che è iniziato il campionato NFL, che c'è un ascoltatore che continua a dirmelo, lo so che è iniziato con la vittoria dei Dallas sui campioni in carica dei Jets, quindi avvio con il botto. Dicevo, voglio parlare di calcio perché, vabbè, adesso c'è la nazionale che va a Sofia, nazionale a settembre, diciamoci la verità, non importa a nessuno, e correggetemi se sbaglio. 800 24 00 24. E allora, che dire, giochiamoci sopra. Qual è l'argomento del momento? Ma il gioco delle coppie. Buonasera a tutti voi e bentornati qui nello studio 4 per un'altra puntata del gioco delle coppie. Anche questa sera tre splendide ragazze che giocheranno con il concorrente che sta splendide ragazze non ce le ho. Il gioco delle coppie è qualcosa di qualche anno fa che fece anche successo. Giovinco, Osvaldo, Insigne, Destro, Cassano, Pazzini, Balotelli, Borini, sono tante le coppie in ballo, sono tutti giovani tranne Cassano, che vedremo se verrà convocato di nuovo. Voi invece lo siete sempre, 800 24 00 24, Saluto e ringrazio Aldo Serena. Ciao Aldo. Buongiorno a tutti. Allora, facciamo il gioco delle coppie. Giovinco Osvaldo per cominciare, a quanto pare, contro la Bulgaria le qualificazioni mondiali. È quello che dice il momento del campionato appena iniziato, che Giovinco sembra aver trovato ora la formula giusta per domare quelle che sono, secondo me, le sue tensioni forti con la maglia bianconera. Lui che è nato proprio lì, che è cresciuto con quella casacca, secondo me non riusciva ad esprimersi al meglio. Ora con questi due gol di Udine credo si sia liberato. Ed Osvaldo che è in un ottimo momento. Senti, adesso appare il momento di Insigne e Destro, piacciono a tutti perché sono giovani, ma secondo me sono ancora molto da verificare. Cioè, facciamo molto presto, Aldo, a dire ecco, è arrivato il nuovo campione, il nuovo fenomeno, il futuro è assicurato, eccetera, eccetera. Secondo me facciamo anche troppo presto. Sì, sono dei progetti, secondo me, Insigne, Destro, Borini, sono tre giocatori che hanno sicuramente delle qualità di indubbia caratura, però devono dimostrarlo con più continuità, devono superare delle prove che fino ad ora non hanno avuto e questo campionato secondo me sarà importantissimo per loro, per proprio dargli la dimensione giusta. Senti, se quella è la mia copia, sì. Balotelli più un altro che vuoi tu. Adesso ci vede anche, l'hanno operato, gli hanno tolto la miopia, figurati come ma non porta. È quello il problema secondo me della vista no, così è un ragazzo che va tenuto per come è fatto, non credo sia possibile inquadrarlo in schemi rigidi, non conviene forse dargli molte indicazioni, bisogna prenderlo così com'è, sperando che si dia un po' di continuità. Senti Aldo, ti chiedo ancora una cosa che non riguarda la nazionale. Il Milan ha Pazzini, è un giovane vecchio come Pato, perché io non ho parole per la vicenda di questo giocatore. L'Inter ha Milito e una nuvola di trequartisti intorno. Non mi sembra che possano partecipare con diritto di cittadinanza al gioco delle coppie dello scudetto. Ma per quanto riguarda il gioco delle coppie, mi sembra che non ci sia una coppia, ma ci sia una squadra lì davanti a tutti, che è la Juventus. La Roma è affascinante perché con quel gioco spumeggiante fa tanti gol, forse ne subirà anche tanti, ma insomma ci si diverte sempre. Io non tralascerei il Napoli, che piano piano lavora sempre con quadratura, col suo allenatore molto pragmatico. Inter e Milan sono dei punti di domanda, perché entrambi hanno cambiato tanto, si stanno modificando, ma non mi sembra abbiano particolare qualità e anche una maturazione, una giusta maturazione. Ecco, per quanto riguarda l'Inter e Milan, i campioni sono in là con gli anni e quelli giovani devono ancora dimostrare. Grazie Aldo. Ciao, grazie a tutti. A un abbraccio. Grazie ad Aldo Serena, con cui abbiamo giocato alle coppie. Adesso giocate voi però. 800 24 00 24, il numero verde. A quanto pare saranno Giovinco e Osvaldo ad aprire le danze in Bulgaria. Apertura di Pirlo, Giovinco, zona tiro, Giovinco, il destro, rete, il gran gol di Giovinco, e lui è il man of the match. Martigno lascia a Totti, che va in verticale da Osvaldo, palla incredibile di Totti, Osvaldo! Mamma mia, segna solo gol pazzeschi! Pablo, Daniel, Osvaldo col cucchiaio, dopo la rovesciata, 2-1! Questa è la prima coppia, chissà se vi piace. Saluto e ringrazio chi mi dà dell'antipatico arrogantello. Prendo e porto a casa. Marco D'Alissone non crede aver sbagliato. I campioni sono i Giants, non i Jets. I Giants che hanno perso la prima partita della stagione NFL 24-17. Andiamo con un'altra coppia. Insigne e Destro, quella dei giovanissimi. Insigne, prova Insigne! Che bellezza! Che splendido gol di Lorenzo Insigne! 3-2 del Napoli, fulminato Starke! destro in area di rigore, a vuoto De Santis, e Destro non sbaglia mai. Che giocatore Mattia Destro, festeggia la convocazione col gol dell'1-1, sesto minuto. Ed eccone un'altra di coppia che chissà se piace a Piero dalla provincia di Milano. 800 24 00 24, convocati qui su Radio 24. Piero, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. No, io volevo semplicemente fare una considerazione sulle Paralimpiadi. Prego. Credo che per la prima volta la RAI sta dimostrando di essere all'altezza, di essere una società seria. Credo che quello che si stanno dimostrando oggi i ragazzi che partecipano a questa manifestazione, che è sicuramente meravigliosa, servirà anche in futuro a spazzare quelle situazioni che magari talvolta vedono diversamente abili penalizzati, e invece sono in grado né più né meno di dare quelle emozioni che dà lo sport in generale. Per cui credo che una nota di merito debba essere giustamente data alla RAI per quello che sta facendo, sì, in questo momento, che certo, credo che grande spazio, sarà meraviglioso, Sky, e sarà sicuramente porterà un futuro a questo sport. Qui all'800 24 00 24, o su Twitter, tra un po' anche su Facebook o via mail, ma vi voglio sentire tutti. C'è, convocati anche naturalmente via sms, 349 238 6666, e proprio via sms c'è chi mi domanda cosa ne penso degli stralci del libro di Tyler comparsi oggi sulla Gazzetta, la storia di Armstrong. Li trovo agghiaccianti, scrive Gian, ascoltatore. È lo stesso aggettivo che ho usato io stamattina scrivendo delle cose in questo spicchio di settembre, in cui a me sembra che ci siano molti altri argomenti più interessanti del calcio. Ebbene, ho scritto: Alberto Contador, dopo quella storia del filetto avvelenato che l'ha buttato giù dalla bicicletta e dal trono per 8 mesi, era fatto saltare la Vuelta con una tappa indimenticabile in salita. Lo sappiamo che molti non ci credono più ed è difficile dargli torto, mentre in America esce appunto questo Secret Race, ultimo agghiacciante libro sulla presunta cupola del doping gestita da Lance Armstrong. Ma continuiamo ancora per un po', se volete, sul gioco delle coppie, prima di parlare del derby di New York che abbiamo visto ieri sera. Sempre sulla colonna sonora di un film indimenticabile, Walter Matthau e Jack Lemmon in La strana coppia. Allora, altra coppia strana, magari no. Coppia collaudata, direi sì. Cassano Pazzini. Wilson per Antonini, bello lo spunto di Antonini che cross in area, Cassano! Antonio Cassano contro il suo pari, trova il gol, 1-1. Decide, cerca il fondo, lo trova, ecco il traversone, c'è un liscio, Nocerino, la piazza, Giampaolo! Pazzini, tripletta, 3-1! Sì, amici miei, questo parlare non solo di calcio andrà avanti per tutta la stagione. Lo domanda Massimo da Torino, via sms io rispondo. Luigi da Pavia, cosa da dire invece? Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Io, approfittando di Alex Zanardi che è in trasmissione, sì, volevo dire che le soglie qua adesso del 2013 quasi, è assurdo parlare ancora di Paralimpiadi. Perché voglio dire, si potrebbero benissimo fare le Olimpiadi facendo partecipare logicamente tra di loro gli atleti diversamente abili e gli atleti cosiddetti tra virgolette normodotati. C'è già il caso Pistorius ad aver aperto questa via, che trovo però abbastanza scivolosa, quindi si parla tanto di battimento della barriera architettonica, sì, sì. Però Luigi, io credo che l'interesse dimostrato dall'opinione pubblica, dagli inglesi e giù il cappello per la loro cultura sportiva per l'ennesima volta, dal miliardo di telespettatori che seguono le Paralimpiadi, dall'interesse che, come sentite anche dalle vostre telefonate, abbiamo, mi sembra che quelle barriere siano già cadute, mi sembra che non sia il caso di mescolare le cose, mi sembra che non esistano forse più Olimpiadi di Serie A, Paralimpiadi di Serie B, esistono esibizioni sportive al massimo livello e le stiamo vedendo, le abbiamo viste lungo tutta l'estate, quindi mi sembra che quelle barriere a cui lei fa riferimento siano già andate giù, sbriciolate. Giuseppe, Bologna. Sì, buongiorno a tutti, anzi buonasera. Niente, io volevo parlare, ho sentito così l'argomento della strana coppia. Sì. E volevo parlare un attimo della coppia tornata insieme dopo tanti anni, Roma-Zeman. Sì. Niente, penso che ci siano tutte le caratteristiche, ovviamente credo anche i giocatori, sì, per sicuramente credo vincere o perlomeno restare lì tra le prime tre, perché ho visto insomma l'ultima partita, non tanto la prima contro il Catania ma contro l'Inter, un gruppo compatto che sicuramente potrà darci tante soddisfazioni, e sicuramente Zeman meritava molta più considerazione anche da parte di altri club, quindi sì. Beh, insomma, adesso qui non stiamo ad aprire il discorso su Zeman, che non ha mai allenato una squadra da scudetto, che si è costruito questo personaggio, tralascerei questo discorso. La Roma è qualcosa, è la cosa, cosa è una parola che uso apposta, più interessante, intrigante e al momento indecifrabile del nostro campionato. Sono curioso, se ho una curiosità verso questo campionato è proprio scoprire la crescita di questa squadra e questa squadra cosa riuscirà ad esprimere. Dietro la Juventus c'è il magma, da quel magma può uscire la Roma, magari anche per il secondo posto, perché la corsa io la vedo monopolizzata in questo momento dalla Juventus. Carlo da Potenza. Buon pomeriggio. Salve. Volevo porle due domande, una se possibile dal punto di vista umano, sì, e l'altra puramente di sport. La prima, vorrei mettere in parallelo, anche se purtroppo il destino li ha messi proprio all'opposto, la felicità di Alex Zanardi e la tristezza, me lo conceda questo termine, di quel deficiente di Cristiano Ronaldo. Sì. Vedere la felicità di uno che sì, ma guardi, la vita gli ha tolto qualcosa, e la tristezza di chi dalla vita ha avuto forse anche di più di quello che semplicemente ha, guardi, potuto ottenere due calci ad un pallone. Carlo, Carlo, posso, è una considerazione che molti hanno fatto anche via SMS. La tristezza di Cristiano Ronaldo è triste e finta, perché sappiamo che dietro ci sono questioni di soldi, sappiamo che dietro ci sono questioni di rinnovi di contratto, di adeguamenti, eccetera eccetera, quindi mi sembra addirittura offensivo mettere insieme le due cose, ma offensivo per la comune intelligenza, ovviamente non la sua, però mi sembrano due storie talmente agli antipodi che non vale la pena quasi di accostarle. Poi dica, ha dell'altro? Sì, poi volevo, visto che è anche un grande esperto di basket, volevo sapere, ma secondo lei, fermo restando che c'è ancora molto da lavorare, possiamo dire di avere una nazionale di pallacanestro? Grazie. Guardi, io le rispondo facendole sentire una cosa, cioè come è finita ieri sera, lo faccio sentire attraverso la telecronaca di Nicola Tregari e del nostro amico Dan Peterson, come è andata Turchia-Italia. Rimessa nelle mani di Hackett, che si alza dalla lunga distanza. Oh! Meno uno! L'hanno sfidato! Ha raccolto la sfida! Daniel! Salaslan si fa consegnare il pallone, inseguito da Cinciarini. Ora è pronto anche Gollum. Gallinari aiuta. Lo scarico per Prezic. Fa saltare da Tomer. Rinuncia al tiro. Gollum! Stoppato da Gallinari! Il pallone della vittoria nelle mani degli azzurri. Incredibile Gallo. Un'eleganza, un tempismo. Eccolo il blocco di Gallinari. Ha accettato il cambio. Da Tomer dietro la schiena contro Prezic. Si complica un po' la via. Yeah! Mossegna! Finito! Pazzesco! Pazzesco! Italia avanti! Occhio ai falli. L'uscita da parte di Aslan va per la vittoria e sbaglia. L'Italia spanca anche la Turchia. Rimane perfetta. Chiuderà in vetta il girone F di qualificazione agli europei. Può festeggiare tra i fischi del pubblico turco. Allora, non possiamo ancora dire di avere una squadra forte, non possiamo ancora dire di avere una squadra competitiva a livello europeo, a livello di campionati europei, che abbiamo già conquistato, però 7 vittorie in fila. E vincere in questo modo, quando, come ha fatto la nazionale di basket, ti puoi anche permettere di perdere senza grossi drammi, risalire due volte, rimontare due volte da meno 18, poi da meno 11 e poi arrivare a vincere questa partita su un campo come quello turco, su un campo su cui, ripeto, con le squadre di club abbiamo spesso negli ultimi anni preso schiaffoni. Beh, insomma, i segnali per una squadra vera, una nazionale vera di pallacanestro, dopo le pernacchie meritatissime che le abbiamo rivolto per le ultime stagioni, per non averci portato all'Olimpiade, per i pessimi risultati, beh, adesso è il momento della speranza, quantomeno. Claudio, provincia di Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Dica. Niente, volevo solo allacciarmi al discorso di Contador, della Wilt. Sì. Anche se, niente, io dico questo, che siccome si parla tanto di Armstrong, doping, squalifiche, però penso che quelli che hanno visto ieri la zappa, che erano a vederla dal vivo, beati loro, ricorderanno le emozioni. Se poi dieci anni salta fuori un Guariniello che dice è tutto falso, quelle emozioni non me le cancelli. Sì. Perché altrimenti lo sport italiano è pieno di casi. Vedi Gattuso che nello spogliatoio si rifiuta perché lo spogliatoio è sporco, vedi i Cova, i Bordin che nell'80 dettavamo legge e poi dopo sapevamo che a quell'epoca c'era Conconi che era capo del... che poi dopo è diventato capo lasciando stare la spazzatura del passato, sono d'accordo con lei, Claudio, che evidentemente è uno di quelli che nel ciclismo ci crede ancora e secondo me fa bene. Sono d'accordo con lei abbiamo parlato tanto di emozioni, no? in questa puntata di tutti i convocati. Ebbene, è stata sportivamente emozionante la tappa di ieri della Vuelta, è stato sportivamente emozionante vedere Contador su quella salita. Esatto, proprio così, tutti convocati, 800 24 00 24, numero verde, SMS, che senso ha attaccare Armstrong ora, mi si passi il termine, a riempirlo di merda, se qualcuno sapeva doveva parlare subito, io giudico peggio questi che ora si vendono per due soldi. Andrea da Pisa, io credo che ho una mia idea su questa storia e sull'epilogo di questa vicenda, e cioè quando Armstrong era un corridore da 7 Tour de France, era un valore anche economico inattaccabile, godeva di protezioni evidentemente. Adesso Armstrong è semplicemente un ex ciclista cui tutti fanno a gara per stracciare le vesti. Ma voglio parlare del derby di New York. Sara Errani, ieri troppo forte o forse troppo cattiva nel suo tennis, per quello un po' vintage di Roberta Vinci. Sentiamole. No, non si può quantificare, ovviamente è un mese difficile, anche un po' strano, da tutte le due le parti c'era comunque tanta tensione, è ovvio, queste partite non sono facili da giocare, non penso che abbiamo fatto una brutta partita, ovviamente ci conosciamo molto, quindi era un po' cercare di capire l'altra cosa avrebbe fatto, non fatto, quindi... però è andata così, ovviamente è difficile, era anche strano camminare andando in campo senza poterle dire due cavolate, era strano, però capita. Ha vinto la più brava oggi, è stata più brava lei di me, però dire ha vinto la migliore o la peggiore, questo non mi sembra il caso di dirlo. È una sconfitta che sicuramente brucia, come bruciano tutte le sconfitte, però guardando un po' tutto posso essere più che soddisfatta. Ho giocato un grande torneo, se uno mi avesse detto fai i quarti l'US Open ci avrei messo la firma. Queste le nostre ragazze, Sara Errani, che andrà in semifinale con Serena Williams e Roberta Vinci. Io saluto e ringrazio Rita Grande, 5 volte Fed Cup e ora commentatrice di tennis. Ciao Rita, grazie. Buongiorno, ciao. Ho detto bene il tennis della Errani troppo cattivo per quello un po' vintage, bellissimo di Roberta Vinci. Sì, sì, bellissima la presentazione. E, insomma, non più cattivo, ma più solido, direi, sì. Perché la cattiveria agonistica ce l'hanno un po' tutte le giocatrici. Sì, certo. Sì, poi chi la esprime di più, chi meno, a seconda del tipo di gioco, perché anche Robertina ha cattiveria, però ha un gioco magari più estroso, più brillante, e sembra meno cattiva. Però, insomma, ieri cattiveria ce n'era poca, perché essendo molto amiche è difficile giocare un match di tennis, e poi soprattutto i quarti in un torneo del Grande Slam ancora lo è ancora di più. Sì, ci vuole, insomma, mi vengono in mente le sorelle Williams che per anni si sono giocate le finali, deve essere qualcosa di molto strano in effetti. Eh sì, poi sono state anche criticate da tutti dicendo che loro si dividono i tornei. Bravo. Però immaginati con una sorella quanto può essere difficile. Papà dice questo lo vince Serena, quello lo vince Venus. No, non era così, perché poi soprattutto questi campionesse giocano per la storia, quindi i tornei del Grande Slam volevano vincerli entrambi, però penso sia proprio difficile gestire le emozioni, e quindi è complicato poi giocare a tennis, è uno sport tecnico, e quindi bisogna, insomma, fare anche determinati tipi di giocate, che bisogna avere la testa libera. Certo. Quindi è complicatissimo. Senti, mi lasci dire che questo 6-4-6-2 in fondo è la parte meno importante di questa storia di inizio settembre a New York, è solo un risultato per le statistiche. Certamente seguiremo tutti Sara Errani in una semifinale, direi quasi alle soglie dell'impossibilità, contro Serena Williams. Mi lasci dire che il grande risultato è aver visto questa partita su uno dei quattro campi più belli del mondo. Stavolta sono blu quelli degli US Open. È vero. Poi Sara quest'anno ci ha abituato benissimo, dai quarti a Melbourne, alla finale a Roland Garros, adesso di nuovo in semi agli US Open. Stupendo, cioè più di così credo non si poteva immaginare, e merita tutto questo, perché comunque è una ragazza che si è impegnata tantissimo, ci ha sempre creduto, e non a caso Serena Williams ha dichiarato che invidia un po' questa sua grinta e il fatto che ci creda in tutte le situazioni Sara Errani, quindi sono anche dei bei complimenti da una campionessa che ha vinto tanti tornei dello Slam. Sì, è possibile questa semifinale? È possibile. Sai, Panatta l'altro giorno ha detto per batterla bisogna andare in campo col cannone. Anche. C'è da dire che adesso Serena, insomma, ha 30-31 anni, non è più giovanissima. Speriamo che si stanchi un po', perché sta giocando tantissimo da Wimbledon. Lei è abituata, insomma, a fare pochi match durante l'anno, però la vedo un po' impossibile, perché poi sul cemento, una superficie che favorisce il gioco di Serena, con questi colpi a rimbalzo fortissimi, il servizio che lo sta sfruttando al massimo. Però bisogna crederci, e Sara, insomma, ce lo insegna, e quest'anno ha sovvertito molti pronostici, quindi dobbiamo crederci. Poi posso dirti, ieri sera ho visto i quarti di finale femminili e sono state tutte splendide partite, anche Sharapova, Bartoli, anche quella della la sconfitta della Stosur contro la Azarenka. Sì. Sono state partite veramente emozionanti. Poi ho guardato giusto l'addio di Roddick, perché era qualcosa di così di commovente. Sì. E poi mi sono addormentato, te lo giuro, guardando i primi due orrendi set giocati da Murray, che poi si è ripreso e ha strapazzato Cilic. Sì. Però mi sono addormentato e non mi sono più ripreso, ho letto oggi il risultato. Vabbè, hai fatto un bello spot per il tennis femminile. Sono fatto da solo, cioè io non c'entro nulla, quelle altre due partite sono state due schifezze, posso dirlo. Diciamo sì che il tennis maschile in televisione non rende tantissimo, è più bello vederlo dal vivo, perché comunque la velocità di palla, le rotazioni in televisione si perdono. Sono d'accordo che Murray è un po' noioso da guardare, non è un giocatore, insomma, brillante, quindi annoia un po'. Però, insomma, io mi diverto a vedere tutte le partite, perché sono sempre cariche di emozioni. Poi il tennis femminile è imprevedibile, perché c'è la paura di vincere, la paura di perdere, quindi i risultati poi possono cambiare. Ieri il tabellone ha salutato il re, no? Il re Roger. Re Roger battuto da Berdych. Questa sì. Non me l'aspettavo. Non ho visto nessuno. La partita, non me l'aspettavo. Nessuno se l'aspettava, perché ha vinto per scratch contro Fischi, quindi ha avuto più tempo di recupero. Sai che dicono che lui sia un po' vecchiarello e quindi deve avere qualche ora in più per recuperare. Però non ha perso per stanchezza, ma ha perso perché comunque Berdych l'ha sovrastato, credo, con il servizio, con la risposta. Un grande giocatore anche Berdych, faccio il tifo per Roger tutto l'anno, però ogni tanto è bello vedere anche qualcuno, insomma, che vinca un torneo che non sia lui. Sì, certo, questo sì. Grazie Rita. Grazie buon lavoro. A voi, buon lavoro. Grazie ciao. A Rita Grande. Ciao, ciao. Dunque, c'è chi ancora insiste sul football americano. Facciamo così, ne parleremo anche di football americano, ne avremo, e di sport americani in generale. Adesso vi lascio con una suggestione, vi faccio sentire il trailer che la TV americana dedica all'inizio del campionato di football. Così, originale. Every biography depends on its subject. To absorb, to compel, to engage you so powerfully you simply can't turn away. And with the subject of this biography, no one turns away. Every week, this is where the best stories of the NFL season are told. It truly has been an honor to play in Indianapolis. È chiaro, ci mancano le immagini, ma resta la suggestione. Sono sicuro di aver detto Giants prima, molti mi hanno corretto, Jets. Se ho sbagliato, ho detto una cavolata, chiedo scusa. In realtà il match di questa notte che ha aperto la stagione dell'NFL è stato quello tra i Dallas Cowboys e i New York Giants, e hanno vinto i Cowboys. Paolo Dalodi. Sì, buongiorno Sorgente. Buongiorno a lei. Senta, volevo parlare della parte di Paralimpiadi, della pallavolo, mi sfugge il nome del attuale sport della pallavolo nelle Olimpiadi, ma mi ha impressionato il tipo di gioco, perché veramente non cambia quasi nulla se non fosse la rete alta e il salto rispetto a quello che è il gioco. Quindi complimenti assolutamente a questa, a questa disciplina, come tante altre. È chiaro che io porto acqua al mio mulino nel mio sport. Del suo sport, però io credo che insomma abbia trovato qualcos'altro se ha seguito le Paralimpiadi, al di là del suo sport. Sì, assolutamente. Ma mi ha impressionato un po' qualsiasi cosa che viene fatta con una naturalezza, che è un po' quello che diceva Zanardi. Non riuscirei a fare io cose da normodotato che fanno persone con delle difficoltà fisiche, sicuramente. Quindi proprio una cosa generale, era un evidenziare un po' quello che riguardava il mio settore. Volevo fare velocissimamente un passo indietro di due mesi alle vecchie Olimpiadi, semplicemente sì. I complimenti all'Italia della pallavolo sotto l'aspetto al ricordo di Vigor Bovolenta. Sì. È l'unica squadra nello sport che ha ricordato un proprio atleta rispetto a calcio, moto e tutto. Fa benissimo a sottolinearlo e io la ringrazio anche per questo. Stefano da Teramo. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Io volevo intervenire, sì, pronto, mi sente? Sì, la sento. Allora, volevo intervenire a proposito di Zeman, che adesso viene messo sugli scudi, giustamente, però dal mio punto di vista non volevo criticare l'allenatore, perché non si discute, volevo un po' criticare l'uomo. Possiamo anche discutere l'allenatore, Possiamo anche discutere, sì, non è peccato. Cioè, vabbè, poi quelle due cose difficile scinderle, perché è sempre stato un uomo integro, un uomo al quale ha detto sempre le cose così come stavano, nude e crude. Io sono abruzzese, non sono un tifoso pescarese, non mi interessa nemmeno di calcio, però così, facendo un assunto, come si è comportato a Pescara, che era stato messo proprio negli inferi, quindi abbandonato e dimenticato da tutti. È stato ripescato a Pescara, ha fatto una bellissima stagione. E adesso ha salutato ed è andato ad allenare la Roma. Stefano, continuiamo questo discorso se vuoi un'altra volta, perché adesso mi è scaduto il tempo. Grazie a Franco Piantanini in redazione, a Carmelo Lauricella in regia. Ci sentiamo domani alle 2, tutti convocati qui.